Bene. Allora, Conato Davide. Assente. Cominciamo bene. Conato Rick. E via, No, prof. io non ho più visto. Conato Mario. Presente. Conato Max. Presente. Conato Sandro. Presente. Conato Diego. Ah sì, è presente, sono qua. Conato Murad. Presente. Sì, ci sono. Conato Baza. Presente. Comprare